La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. You know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. A 24 anni Tom O'Dell scrive canzoni da quando ne aveva 13. Dice che scrivere canzoni e mettersi al piano a suonarle è un po' come aggiustare qualcosa che si è rotto in lui. Per questo le sue più belle canzoni, racconta lui stesso, sono state composte in nottate insonni, quando era intriso di insofferenza, dolore e stanchezza. Se va tutto bene, le sue canzoni non nascono. Inglese, la mamma insegnante, il padre pilota, l'infanzia trascorsa in Nuova Zelanda, i pomeriggi passati a suonare e giocare con la sorella maggiore e un amico conosciuto a scuola, quello stesso amico che oggi lavora con lui. Tom cresce col sogno di vivere di musica, ma racconta d'essere troppo timido e insicuro per far sentire i suoi pezzi a qualcuno. A casa non lo sostengono, solo la nonna lo tiene in piedi in questo sogno. E sarà la nonna e la sorella maggiore, ancora bambina, a convincere i genitori di Tom a lasciare che il ragazzo prenda lezioni di piano. Tanta autodisciplina, passione e letture faranno poi di O'Dell il ragazzo che sogna di vivere di musica. Quando ormai adolescente torna con la famiglia in Inghilterra, Tom O'Dell sceglie di lasciare l'università per suonare. A 18 anni prova a trovare un posto come insegnante presso la scuola di musica di Liverpool, ma niente da fare. Tra cadute, sconfitte e momenti di sconforto, Tom va avanti. Nel 2012 Song for Another Love segna la svolta. Un anno dopo l'album di debutto, Long Way Down, che raggiunge i primi posti in classifica in Gran Bretagna. Well, I started playing the piano when I was about 6 or 7, and then songs when I was about 11 or 12. My parents weren't very musical. Avevo circa 12-13 anni e cominciai a suonare delle canzoni che avevo scritto io al piano. Suonavo il pianoforte e nella mia famiglia nessuno era davvero preso dalla musica. Fu mia nonna a insegnare a me e a mia sorella a suonare il piano. Credo sia stata lei a darci le lezioni, le prime lezioni, e credo sia stata lei l'ascoltatrice più attenta, almeno all'inizio. When I first moved up to London, it was quite a shock of living in, you know, such a big city and sort of looking around and I guess although there's like millions of people in London and there's so much culture which is. Volevo suonare. Lo volevo davvero, così chiesi a mia madre la macchina ed andai a Londra, avevo 18 anni. La prima volta che arrivai a Londra fu uno shock. Era una città enorme, gigantesca, con milioni di persone, centinaia di culture diverse. Avevo scritto già qualcosa, andavo in giro per la città consapevole di questa grandezza. È stato un momento molto forte, anche triste. La città mi disorientava. Avevo già scritto alcune mie canzoni, altre vennero fuori anche da quell'esperienza. Volevo fare il musicista, mi ero immaginato le cose diversamente, volevo scrivere della buona musica e soprattutto volevo essere felice della mia musica. I just want to make the best music I can make. I've never really had any conscious decision to set myself apart from anyone. I guess I enjoy both really, like I really enjoy. Hair on my skin as we lie living cause you'll fall back to sleep every time. Il ragazzino che sognava di convincere i suoi genitori a prendere lezioni di piano è diventato una star timida e piena di possibilità, perché dall'alto dei suoi 20 anni ha la freschezza di chi vuole imparare, sperimentare, vivere, viaggiando, come racconta ad Adriana Fracchia che l'ha incontrato per noi. From the first time I came to Italy with my music, it was 4 months ago. It was clear how, ogni volta che vengo in Italia capisco che si tratta di un paese molto bello. Questa è la seconda volta che vengo e anche questa volta ho sentito il calore dei fan, la bellezza. Ho suonato a Milano ed è stato un concerto favoloso. Mi sono divertito perché ho sentito che le persone c'erano, si stavano divertendo con me. Quindi per me ogni volta che vengo in Italia è un momento di gioia. È un paese molto bello. Ho dei ricordi legati all'Italia, ho dei ricordi di viaggi fatti con i miei genitori. Amo molto la bellezza di questo paese, voglio vedere di più, voglio andare nel sud dell'Italia. It's beautiful. I want to see more of Italy, you know. I'd like to see more. I'd like to go down further south. La prima volta. Tell me I don't need to fear. Tell me now. Tell me somebody's near. Sirens, sirens are all I hear. La prima volta che arriva a Londra, Tom O'Dell ne resta sconcertato. È una città gigantesca, dirà. Una città che lo fa sentire piccolo, che lo avvolge in un misto culturale profondo, ma è anche una città che lo accoglie, lo segue come artista. Sarà qui che inizierà la sua vita artistica. A 24 anni, il suo primo album ha già scalato tutte le classifiche. Soltanto un anno prima, il suo singolo d'esordio fa il giro del mondo. O'Dell resta il ragazzino semplice e romantico, ma la voce, i testi, gli arrangiamenti musicali e la presenza sul palco fanno pensare ai grandi del pop britannico. La Gran Bretagna, in un momento di crisi artistica a livello europeo, continua a segnare punti e a scovare talenti. Well, I think there's a great demand for music in England. Like, it's a big part of people's lives. Like, every summer, you know. Beh, io penso che ci sia un grande ascolto della musica in Gran Bretagna. Credo anche che siano tanti ragazzi che suonano in Inghilterra. Ricordo che ogni estate andavo in giro per festival musicali e c'era in questi contesti una condivisione artistica, una voglia di imparare, di fondere la propria cultura musicale con quella degli altri. Credo che la scena inglese sia molto vivace, lo sia sempre stato, e oggi non c'è solo Londra. Si respira quest'area di ricerca musicale, si sente buona musica venire fuori da Manchester, da Liverpool, ma anche da altre province, di certo non solo da Londra. C'è da dire che noi come generazione abbiamo avuto più possibilità di muoverci per il mondo e di imparare più cose, anche sul fronte musicale. Questo credo sia molto significativo. Secondo te, per te, quanto è difficile emergere artisticamente, soprattutto con un numero così alto di artisti, e soprattutto in Inghilterra, quanto è difficile emergere, farcela, arrivare appunto a un traguardo come il tuo, anche se, come dici tu stesso, hai appena iniziato, sei all'inizio, però in qualche modo tu hai già inciso un disco, sei conosciuto a livello mondiale, sei molto apprezzato dai giovani. Che cosa ha contato? Qual è stata la molla che ti ha permesso di emergere, secondo te? I don't know. I think the thing is like you just have to like I met an artist the other day who asked me, you know, how did you get a record deal? How did you do this, you know, release an album? Sai che non lo so, non credo ci sia stato un momento particolare. So che a un certo punto non mi sono preoccupato del gruppo con cui suonavo o se stessi davvero andando nella giusta direzione. Semplicemente mi sono messo a suonare. Altri mi passavano la loro musica, l'ascoltavo, io passavo la mia. Tra musica suonata e buona musica ascoltata, io ho cominciato a vedere le cose che andavano nel verso giusto. Ma non potrei dire molto altro. Forse l'unica cosa è che non mi sono preoccupato molto. L'unica cosa che ho fatto è scrivere e suonare cose che mi piacevano. Credo che questa sia l'unica cosa che tutti dovrebbero fare. Sicuramente è così. Certo, però, che cosa si può dire? Semplicemente che serve un po' di fortuna. Certo, ma non è solo quello, ovviamente, a fare la differenza. Lily Allen è la tua scopritrice e lei, in qualche modo, è stato il tuo colpo di fortuna perché è stata lei a scoprirti, quindi la fortuna è stato aver anche incontrato una persona capace di riconoscere il tuo talento. Almost, you know, 2.5 years ago now, and I was doing some shows in London and she came down to a show. Sì, ho incontrato Lily circa un anno e mezzo fa a Londra. Gli diedi le mie canzoni e lei ne fu davvero entusiasta. Amiamo gli stessi artisti ed è un buon incontro, sì, decisamente. And I signed to her label. Yeah, she's... Which are the artists you love? We both love Bowie. Mi piace tantissimo. Amo David Bowie. A proposito di artisti, com'è stato aprire il concerto di Billy Joe? Ti ha dato dei suggerimenti? Sì, mi ha dato tanti suggerimenti, ma non solo sul palco. Amavo la sua musica anche prima. Ho tratto molto ispirazione dalla sua musica. He's a very, very charming man. I have a lot of respect for him. A lot of respect. And he's also one of the nicest blokes I've ever met. And I've met a few of these big stars and sometimes they have this huge ego that comes along with it. But Billy was so down to earth and grounded and just, you know, top bloke. Senti, adesso ti faccio una domanda invece più divertente, anche un po' più leggera, non legata alla musica, perché abbiamo visto un servizio in cui tu incontri il principe Carlo. Com'è stato incontrare un membro della famiglia reale per te che sei inglese, appunto? It's funny, it's this job I have sometimes leads you into interesting situations, you know, situations you wouldn't have imagined would happen to you. È stato molto affascinante entrare in un mondo così, è stato emozionante. Si è trattata di una visita che mi ha spaventato più prima che durante. Mentre ero lì, ero rilassato. Quindi hai appena finito di dire, hai detto in questo momento che il principe Carlo ti ha ripreso con una telecamera. A questo punto si può dire che sei molto famoso. I'm not that famous, you know, ma io non sono famoso. Quite famous. I'm pretty satisfied. Ma io sto bene così. La cosa più importante è che sono soddisfatto della musica e poi mi piace il fatto di poter ancora camminare per strada da solo. Comunque sono felice di questo riconoscimento. Mi piace la gente che ama la mia musica. Io ho speso tante energie e tanto tempo per scrivere queste canzoni e sono felice che piacciono. I'm just pleased people like my music. That means a lot to me because that's the reason I do it and that's the reason I put all my energy. I spend hours writing songs and playing with my band and it's the thing I really truly love the most. Il fatto che tu stia viaggiando così tanto, che vieni invitato negli show a livello proprio mondiale, non ti sta togliendo spazio, ispirazione? Non ti sta in qualche modo confondendo? No, I quite like it. I mean, it can get a bit confusing, but I quite like it. You see all these wonderful places all the time. It's very No, mi piace molto. Mi piace molto anche il fatto di essere un po' confuso. Mi piace l'idea di vivere per qualche giorno in posti diversi e conoscere persone differenti. Mi piace. Se dovessi dare un suggerimento a un giovane artista esordiente, che cosa gli diresti? Well, I probably would just say from what I said earlier is just, you know. Intanto io sono un musicista esordiente, l'unica cosa che posso dire a chi suona è di divertirsi. Divertirsi è la cosa più importante quando si suona o si scrive musica. Io ho voglia di suonare, ho sempre voglia di suonare e quando sono triste sento il bisogno di suonare per poter sistemare le cose dentro di me. La musica è parte di me e per chi inizia consiglio di suonare e scrivere per stare bene, di suonare per essere felici. La musica è gioia, deve essere divertimento. Hey, do you want to come and do a gig? Yeah, I'd love to. Quando è stato il momento in cui hai scoperto che la musica era così importante nella tua vita? I was pretty young. I have a terrible memory. Ero molto piccolo, molto giovane quando l'ho scoperto. Ho una memoria terribile, non mi ricordo bene il momento. So solo che ho il ricordo di me seduto al piano e la musica che arriva così, potente. Had this very sort of mystical kind of magic bond with it and I just connected with it and I just felt very comfortable there and it felt like my thing. And i tuoi genitori ti hanno sostenuto in questo? No assolutamente. però non mi hanno nemmeno ostacolato. La prima volta termina qua, io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica, sempre alle 13.30. Un grazie speciale questa settimana va ad Adriana Fracchia, che è andata a intervistare Tom O'Dell. Se volete potete riascoltare questa puntata in podcast, potete anche scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Last spring, and I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry. And